Friuli nel mondo, 181esima trasmissione dedicata agli emigrati. Pradamano e le sue canzoni. Con questa terza ed ultima trasmissione concludiamo il ciclo delle canzoni eseguite a Pradamano durante l'edizione 1968 del nono Festival della Canzone Friulana. È stata una efficiente rassegna canora che ha confermato non solo la validità della manifestazione, ma che ha arricchito il già vasto patrimonio canoro del Friuli. Con le orchestre di Franco Russo e Gianni Safred ascoltate Che l'amor vivuti insieme di Renzo Basaldella, canta Andrea. Solis Cimis, di Guido Michelutti e Claudio Noliani, con la voce di Memo Remigi. Insita si mente piene ai arbol semil sun su pali stradis en la fiere sin vele nindu cicus sol lassù lassù sulis montagnis, a si sa di e si vis, sulicimis des montagnis, cos comence a cricalvi, le un spettacul che in tes flabis mai nessun podarà di. Planca plank, tut quan sindore, vos che creti sa si svei, tal misteri din che ore, lis passions a si smentein, tal misteri din che ore, lis passions a si smentein. Champa furdi che sti spenis alelsium di milvias, sium di mons e di pinedis, iaiar pur e tante pas. Sol lassù, lassù su che smontagnis, si è plui donghi al paradis. Planca plank, tut quan sindore, vos che cretis a si svein, tal misteri din che ore, lis passions a si smentein, tal misteri din che ore, lis passions a si smentein. Lassimi sole di Angelo Peloi nell'interpretazione di Barbara Lori. Va là, va là, lassimi sole, va fuori. Va fur, fur de mi vite, nome cusi, nome cusi, o podarai, torna su mia, un'altra vite, donge di un altri, senza di te. Lassimi sole, va fur, fur de mi vite. Nome così, nome così, o podarai, torna a spera, un'altra vite, donge di un altri senza di te. Thank you. Ed infine Il Miracolo di Simpri di Angelo Peloi e Pippo Sormani, primi classificati. Canta Gino Corcelli. Ave, il miracolo di Simpri, qualche torna la viarte, la stagione tutta in flore. Il tempo si vestis di sorelli, si vestis in gli struttis di speranze d'amore. Egli è primavera, tal'aiar tal'cun, in sovin si corre, tai rivai tal verde l'april, e svolin tal'aiar, per aulis d'amor, son come fafalis che si poi sui praduci in flor, si viarsin li rosis, al cianti roiù, intogliena sagre, sagre di morzus, dimme ninine, che soi dude to vite, che roiù fa spuntare. Sin tarde si di sei biel avvi sempre la viante arresta sempre zovins al sares di firman dentro o sgugnin bandonale al sares un miracolo ele sempre con noi. Garzin li rosis, al cianti ruius, intorgen a sade, sagre di morzus, dimme dimme ninine, che soi dude to vite, i ruius fa scultaiu, al sintar de si di. Se biel ave sempre la viarte, arrestas in prisovins, al saresti firmar. Purtroppo sgugnim bandonale, al sares un miracolo, ele sempre con noi, ele sempre con noi, ele sempre con noi, ele sempre con noi. Bene sempre con noi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari.